Allora, intanto grazie di essere qui così numerosi. Buonasera, buonasera. Ecco, rivedere i molti amici che ritornano per questa occasione molto bella del nuovo libro di Ettore Frangipane, la cui produzione è veramente estesissima. Lo seguiamo anche sui quotidiani, la sua produzione, le sue idee e la documentazione che riesce sempre a trovare è straordinaria. Abbiamo semplicemente messo qui alcuni dei suoi romanzi, quindi ci siamo limitati a questi e non abbiamo messo quelli invece di storia, ma li conoscete perché siamo già arrivati a Bolzano scomparsa 15, quindi insomma abbiamo veramente una documentazione fantastica e straordinaria. Questa sera abbiamo il piacere invece di scoprire di nuovo Ettore Frangipane da un altro punto di vista, da un punto di vista più narrativo, con questo romanzo che si intitola appunto Diario di Natale senza il bambinello. A me non spetta il compito questa sera di spiegarvi altro, perché abbiamo con noi Stefania Gander, l'editrice, che poi ci racconterà alcune cose, ma soprattutto intanto vi ringrazio e vi ricordo che la Biblioteca Provinciale Claudia Augusta organizza ogni settimana degli eventi, degli incontri con le autrici, con gli autori, e mi preme molto segnalarvi i prossimi anche appuntamenti, ovvero quello di domani, che è dedicato a un gruppo di lettura che si dedica alla narrativa locale. E ci troviamo alle ore 17 in biblioteca direttamente. Questa volta leggiamo insieme Resta quel che resta, che è un romanzo di Katia Tenti. Mentre la prossima settimana abbiamo straordinariamente lunedì alle 17:30 una conferenza che si aggancia all'attività e alla mostra che in questo momento è in corso al piano 1 qua sopra di noi, dedicata agli Etruschi. Ecco, la Biblioteca Provinciale mette a disposizione una nutrita bibliografia dedicata al tema degli Etruschi e ha organizzato un'iniziativa vede come ospiti il dottor Lorenzo Dal Ri, che è stato archeologo alla Sovrintendenza dei Beni Culturali della provincia di Bolzano, e Alberto Alberti, che è appunto un archeologo che lavora e ha all'attivo molti scavi presso la nostra regione e provincia. Perché abbiamo invitato loro? Perché ci racconteranno i legami che ci sono tra gli Etruschi e i Reti e il nostro territorio. Quindi sarà molto interessante ascoltare dalla loro voce e poi leggere anche i libri che mettiamo a disposizione questo legame particolare. Allora, vi ricordo, questo è l'appuntamento del 18 novembre, quindi lunedì prossimo alle 17:30. Poi non vi lasciamo mica liberi, perché il martedì 19 alle 17:30 avremo un altro incontro: Architettura di storia, fascismo, storicità, cultura architettonica italiana. Questo è il libro che verrà presentato. Sarà con noi l'autore Giorgio Lucaroni e verrà a moderare l'incontro il professor Andrea Di Michele. Infine il 20 di novembre, quindi saranno una 3 giorni veramente intensa, quasi un festival, avremo con noi l'EURAC che vi presenterà Sinti e l'Olocausto, memoria storica e contrasto dell'antiziganismo. Ci saranno dei docufilm che verranno proiettati e quindi insomma vi prenoto 3 giorni per la prossima settimana, 18, 19 e 20 novembre, qui presso la Biblioteca Provinciale, presso il Centro Trevi. Avremo tutta una serie di iniziative che incontrano più gusti, ma soprattutto questa sera ci dedichiamo ad ascoltare dalla viva voce di Ettore Frangipane quello che avrà da spiegarci e da incuriosirci nella lettura di questo suo nuovo libro, Diario di Natale. Ma prima lascio la parola ancora a Stefania Gander, che ricordo è la editrice di questo libro. Grazie e grazie a voi tutte. Grazie mille, grazie alla Biblioteca Provinciale che ci ospita oggi in questa occasione particolare. Come sempre particolare l'occasione della prima presentazione di un libro che è arrivato ieri sera a Bolzano, per dire quanto è nuovo. È il secondo libro che pubblichiamo come casa editrice di Ettore Frangipane. Caso ha voluto che il primo libro, Il figlio di Hitler, fosse un libro in cui si parlava di Ettore bambino, scritto come se Ettore fosse un bambino, e in questo abbiamo il tempo in copertina. E questo invece è scritto da Ettore oggi, è scritto da Ettore, un signore che il 24 di dicembre, non penso di spoilerare nulla, ma magari incominciamo a pensare un po' al perché di questo titolo, compirà 90 anni. Sono due libri completamente diversi nello stile, nel modo in cui affrontano le cose della vita. Questo è un libro molto crudo, è molto diretto, è molto porta molto alla riflessione questo libro, questo romanzo. Ettore dice che sarà il suo ultimo, ma penso che qua nessuno gli creda, cioè, lo sapete benissimo che non lo sarà. Però mi piace pensare a questo fatto che di due libri che abbiamo pubblicato di Ettore ci sia quasi racchiusa all'interno proprio tutto questo tempo, per cui questa copertina qua la ritengo molto esplicativa un po' di tutto il lavoro che noi in piccolo abbiamo fatto in questo anno, Ettore ha fatto in tutti questi anni di giornalismo, di scrittura, perché i libri ormai che lo siamo più di 40, ci vogliono 4 alette per poter mettere tutti i libri di Ettore, dobbiamo fare delle scelte. Un libro che non lascia sicuramente indifferenti, che, ripeto, esprime concetti senza nascondersi dietro un dito. Va dritto al punto questo libro, uno stile di scrittura che già si ritrova anche in altri romanzi tuoi, ma forse in questo l'hai portato a un punto, al punto più alto della sua franchezza, della sua schiettezza. È un romanzo vero, non so quanto di questo sia vero, chiaramente non tutto, ma sicuramente è un romanzo che ci racconta molto di Ettore, non tanto in ciò che succede, ma in ciò che siamo portati a pensare del protagonista. Ettore, io mi fermo qua, le persone non sono qui per ascoltare me, ma per ascoltare te, e ti cedo il microfono, grazie. E brava Stefania. Dunque, io vorrei leggervi innanzitutto in una delle primissime pagine una considerazione di Hawkins. Avete presente chi è Hawkins? È morto di recente. È quello studioso, quel matematico, che era sempre seduto in sedie a rotelle, paralizzato, deformato, incapace di parlare chiaramente, un genio. Un genio che ha previsto tante cose e che scrive tra l'altro: siamo, noi uomini, cioè l'umanità, solo una specie evoluta di scimmie su un pianeta minore di una stella media. Ma siamo in grado di capire l'universo. Questo ci rende qualcosa di molto speciale. E questo è vero. Noi capiamo o tentiamo di capire quello che ci circonda, anche se dobbiamo continuare ad aggiornare le nostre conoscenze, perché l'origine del nostro pensiero si fa lontana, naturalmente, migliaia d'anni. E in questo tempo, specialmente in questi ultimissimi anni, tante cose sono cambiate. La copertina di questo libro per me ha un significato particolare, anzitutto per quello che rappresenta: il tempo che trascina con sé la Terra. Poi il libro dal quale tratto, che era un libro che ho trovato, che abbiamo trovato nella biblioteca di mio nonno a Catanzaro, Domenico Frangipane, D.F., marocchino rosso, come si usavano i libri una volta, è del 1878. In questo libro, vedi, siamo delle scimmie, ma io ho purtroppo solo due mani. Sono una scimmia Bimanica, ecco qua. Ecco qua questa immagine bellissima. A me piace tremendamente. E l'ho quasi imposta a Stefani. Dice, no, bianco e nero. No, bianco e nero mi va benissimo. Bianco e nero è la dimensione nella quale si vive. La dimensione della luce, del buio, dell'essere, del non essere. Dice qua la didascalia. Il libro naturalmente Flammarion l'ha scritto in francese, ma questa è una traduzione italiana. La terra trasportata dal tempo spinta verso una meta che sempre fugge. Ruota con rapidità, vertiginosamente attraverso lo spazio. Questa musica non è dovuta all'organizzazione di Valeria Trevisan, non è una musichetta allegra. Questo è il mio amico, e lo ringrazio della sua presenza, Alberto Pasquali, scrittore anche lui, che ama andare in giro col telefonino e farsi telefonare quando si tratta... Quando è fatto apposta per sottolineare... Grazie. In compenso gli altri, a cominciare da Franco Sitone, che è stato mio capo redattore, io dovrei ringraziare tanta gente che è qua stasera, però vedo la Daniela, per esempio, no? Daniela Fedele, e lo sottolineo solo per un motivo e poi passo oltre. È una profuga istriana, abita a Bolzano, verso Gries, un po' fuori Gries, e mi ha detto una volta che lei al buio non esce volentieri e al buio non rientra volentieri, perché la sera può capitare di fare anche brutti incontri. Lei questa sera è venuta e mi ha fatto particolarmente piacere. Grazie Daniela. Dunque, la Terra nell'universo. Che cos'è la Terra nell'universo? È un niente. Ci hanno insegnato, ci ha insegnato la Bibbia. La Bibbia è un insieme di storie, di tradizioni, di favole, di menzogne e qualche verità. Io lo penso così, quantomeno. E ci racconta della creazione della Terra quello che si poteva raccontare allora. La Terra avrebbe 3.700 anni, anzi 5.700 mi pare, secondo la Bibbia. In realtà si è calcolato che siamo sui 4 miliardi di anni, hanno calcolato adesso recentemente, non tanto recentemente, hanno calcolato gli scienziati. E quanto riguarda la Bibbia e la scienza, io voglio sottolineare una cosa. Questo libro racconta tante cose di cosmologia che si sono apprese in tempi via via più recenti, le ultime qualche anno fa, che contrastano assolutamente con quello che la Bibbia ci aveva insegnato. Assolutamente. La Bibbia ci ha raccontato che il mondo è stato creato in 7 giorni da Dio. Ecco, l'unico vantaggio che ha, l'unico fattore di arricchimento in più che ha la Bibbia è che promulga una religione monoteista, ed è importante credere in una sola entità religiosa. Dalla Bibbia, l'ebraismo, è scaturito il cristianesimo, come voi sapete, che non è altro che una eresia nei confronti dell'ebraismo, tant'è vero che Cristo, il profeta Gesù, è finito inchiodato sulla croce. E da lì poi, in momenti ancora successivi, è nato l'islamismo, altro monoteismo. Sono tre monoteismi che hanno una sola radice e che, come capita nelle peggiori famiglie, litigano, hanno sempre più o meno litigato tra di loro. veniamo al concreto. La Terra, trascinata dal tempo, la realtà inizia, in realtà sono due, secondo la filosofia che noi percepiamo, e lo spazio e il tempo. Però gli scienziati adesso ci fanno capire che ci possono essere anche delle altre realtà che noi neanche immaginiamo, neanche sappiamo. E si studia nel tentativo di poter approfondire e apprenderle. Pensate che Plutone, l'ultimo dei pianeti che girano attorno al Sole, già il termine girare attorno al Sole già prevede un'eresia incredibile. Pensate a Galileo, il suo contatto, il suo rapporto con la Chiesa Cattolica, con la Chiesa, con il cristianesimo in assoluto, il fatto che la Terra, come doveva essere la Terra? La Terra era al centro dell'universo, sovrastata da una cupola sulla quale si vedono scintillare le stelle, che poi non sono sempre soltanto stelle, anzi spesso sono quelle che noi vediamo. Crediamo che siano stelle, non sono stelle, sono nebulose, e ciascuna nebulosa comprende, ha in sé miliardi di soli. Miliardi, e sono miliardi le nebulose, ed è un eterno espandersi di questi pianeti nell'universo. Noi siamo alla periferia della Via Lattea, che è una nebulosa. Mi viene in mente, mi è venuto in mente Leopardi. L'infinito. Pensate, le conoscenze di Leopardi quali potevano essere, le conoscenze scientifiche naturalmente, no? E ai tempi di Leopardi, ai tempi dei nostri nonni, il cielo lo si vedeva anche di più, tra parentesi, lo dico per inciso, perché non c'erano strade illuminate, non c'era quella che viene definita l'inquinamento luminoso. Si alzava gli occhi e si vedeva il cielo. Io mi ricordo il cielo che vedevo da ragazzo durante l'oscuramento, durante la guerra, per esempio. Era un cielo anzitutto più luminoso. E poi vedevi un'ira di Dio, di lumini rossi che si accendevano qua e là, ed era il mondo, l'universo, un accenno di universo come effettivamente è. E sono andato a suo tempo a Recanati a visitare anche la casa di Leopardi, che vi consiglierei se non ci siete già stati, una casa modesta nell'insieme, anche se erano dei possidenti Leopardi, ma non erano possidenti da spreconi, come purtroppo è troppo spesso capitato e capita nella vita. Avevano tanti libri ed è impressionante la quantità di libri che Leopardi ha avuto a disposizione, sui quali ha compiuto i suoi studi. E vicino alla casa c'è quello che viene definito l'Ermo Colle. È stato così definito da Leopardi, l'Ermo Colle, un colle ermo, un po' lontano, sempre caro mi fu, quest'ermo colle. E questa siepe, che da tanta parte del... Devo leggere, purtroppo, la memoria è quella che è. E questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude, ma sedendo e mirando interminati spazi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, tanto che per poco il cor non si spaura voglio sottolineare l'idea del silenzio dell'universo, e dello spazio. E Leopardi sapeva, si sapeva, che nel vuoto, oltre la terra, non c'è suono, è tutto un silenzio. E come il vento odo spirar tra queste piante, io quello infinito silenzio a questo suono vo comparando. E mi sovviene l'eterno e le morte stagioni e la presente viva e il suono di lei. E così in questa immensità, s'annega il pensier mio e il naufragar me dolce in questo mare. Versi stupendi. Io penso che questa sia la più grande e bella poesia, non ne conosco tante, poesia in assoluto, componimento poetico che sia stato creato dall'uomo, dall'uomo in quanto umanità. Io dicevo prima a Franca Carol, che è qui presente e ci leggerà qualche cosa del libro, che purtroppo noi dividiamo tra... Si dice genericamente l'uomo, ma l'uomo è il maschio e la donna dov'è? Dove resta? Ecco, io vorrei dire, per l'appunto, sottolineare questa circostanza, che si parla tanto di uomo, uomo è Dio, ma poco di donne. Bene, l'idea del mare infinito e dolce naufragare in questo mare mi fa venire in mente l'Odissea, Ulisse, che è la rappresentazione dell'uomo, torno al discorso di prima, uomo con la U maiuscola, che comprende però anche il sesso femminile, secondo me, che è quella del tentativo di migliorarsi, di apprendere, di studiare, di fare esperienze, di girare il mondo per vedere e sapere. Ulisse è una figura meravigliosa. Figura, pensate... C'era proprio l'altro ieri un servizio televisivo che parlava di Ulisse, anzi lo definiva Odisseo, no? secondo la dizione dei greci. Ulisse era un greco, ma anche noi siamo greci. Il sud Italia è Grecia. È la Magna Grecia. Quando leggete di Archimede a Siracusa, era un greco italiano. Di Parmenide, di Elea, filosofo della immobilità dell'essere, è vissuto Elea, era a Velia. Il sud Italia era tutto Grecia, noi siamo anche greci. Sono passati tanti per... Io ho una madre tedesca, per dire, sicuramente non ha origini greche, però noi europei e italiani in particolare siamo il riassunto, siamo, o voglio usare un termine volgare, un minestrone che ha assorbito tante civiltà, elevandole insieme ai greci, Roma, Atene. Dicevo di Ulisse, pensando al suo girovagare per il Mediterraneo, questo suo girovagare disperato. Alla fine è partito da Ilio, distrutto, ha cercato di raggiungere Itaca, non ci è riuscito. Perché? Perché gli dèi, la grandezza di queste religioni era, secondo me, allora il politeismo, gli dèi gli frapponevano ostacoli a ostacoli, e lui ha visto e girava e imparava. Lui si è fatto Ulisse si è fatto legare all'albero della sua nave dai marinai per non sentire il canto delle sirene, perché il canto delle sirene era mortale, ma lui voleva. I naviganti sentivano cantare le sirene e secondo quanto... a quanto raccontavano i sacerdoti di allora nei loro templi, e perdevano letteralmente la bussola andando a finire sugli scogli e affogavano così. Lui ha voluto vivere anche questa esperienza, ma senza cadere negli scogli. Allora cosa ha fatto Ulisse? Si è fatto legare all'albero della nave dei suoi marinai, ai quali aveva infilato della cera nelle orecchie perché non sentissero e non dovevano guardare, e l'hanno portato davanti alle sirene, sono andati oltre mentre le sirene cantavano, e Ulisse, sentendo i canti, gli implorava perché sciogliessero le corde e gli consentissero di fare cosa? Di buttarsi in acqua ad ascoltare il canto delle sirene più da vicino. L'Ulisse, grande, grande uomo, U maiuscola naturalmente, che finita la sua parentesi, raccoglie, tornato a casa, il figlio Telemaco e via dicendo, e raccoglie la sua ciurma e la convince di un'ultima cosa. Andiamo nuovamente per mare a imparare altre cose, a vedere altre cose, a vivere altre esperienze, perché l'uomo non deve fermarsi, l'uomo deve sempre andare avanti. Magari sbagliando, ma il suo futuro è avanti a sé. C'è un foglietto di carta che è ribelle. Forse non ce l'ho neanche. Lo hai tu? È rimasto là? Ecco, vedi, c'è sempre una donna che salva un uomo. Sulla faccia, è così. Allora, vi cito Dante. Gli convince a salire sulla loro vecchia barca ed andare dove? A vedere quello che nessuno ha ancora visto, a vedere altre cose, a vivere altre esperienze, e si butta oltre le colonne d'Ercole, oltre lo stretto di Gibilterra, perché gli hanno detto che al di là c'è un mare grande, lo chiamano mare oceano i greci, e si buttano all'avventura. Finché non apparve loro una montagna bruna per la distanza, e parvemi alta tanto quanto veduta non avea alcuna. Questo racconta Dante, ed è Ulisse che glielo dice. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto che dal novello monte un turbo nacque che percosse del legno della barca il primo canto, la prua. Tre volte il fe girar con tutte le acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora era in giù come altrui piacque. Infin che il mar, ecco che torna il mare, fu sopra noi richiuso. Fantastico. Il mare, quello di Recanati, quello di cui abbiamo sentito appena adesso, è il protagonista del mio libro, che si chiama Natale, diario di Natale, un po' un escamotage, perché non c'è nessun Natale. Natale è lui il protagonista che racconta questa storia e che vive questa storia. Natale sono io. perché io mi chiamo Ettore Domenico Massimiliano Natale. Domenico e Massimiliano sono i miei nonni, quello calabrese e quello germanico. Natale perché sono nato praticamente il giorno di Natale, io e Gesù Cristo. Non vorrei terminare così, con i buchi nelle... I ladroni li trovano. Bene, vi voglio far leggere da Franca Carol, vi leggerà l'inizio di questo mio romanzo in cui si parla di tante cose, è un po' un compendio, un riassunto di una vita, che forse la mia vita, e lei ve lo legge adesso. Siamo al primo capitolo, prima riga. Ti tengo io il microfono o lo tieni tu? No, tengo bene. Però devi dire della fregatura. Che mi... Devi dire della fregatura. La fregatura è che glielo ho detto adesso. Quindi non sono una lettrice, non l'ho letto prima, sono qui che speriamo in bene. Ecco, allora, il testo inizia con una domanda. Ma sei nato a Natale che ti chiami così? Mi rivolgo a lui perché lui è Natale, giusto? Giusto. Natale è sdraiato sulla schiena, gli occhi distratti rivolti al soffitto. È d'un bianco uniforme il soffitto, perfetto. Il marito di Ada, la donna che gli giace a fianco appena coperta da un lenzuolo, è una persona precisa, puntuale, attenta. Ci tiene alla sua casa. È forse un po' noioso, sicuramente non fantasioso. Un marito comunque perfetto per la disordinata Ada. Le volte precedenti che Natale l'era andata a trovare, aveva notato una chiazza d'umido lì in alto sulla destra. Ma in realtà era una piccola cosa, solo un tubo otturato dalle solite foglie autunnali, via l'intoppo, poi qualche pennellata e tutto era tornato a posto. Allora non mi rispondi, Natalino? Avevano appena fatto Ada e Natale. Era seguito il passaggio in bagno, prima di lui, veloce, e poi di lei, più lenta, perché doveva sistemarsi i capelli. Ai momenti accesi era seguita, almeno per Natale, la fase dell'appagamento, dell'indifferenza. Si sentiva insomma rilassata e dopo averla desiderata a dirla tutta, Natale avverte ora solo un vago senso di fastidio. L'aveva usata e ora poteva bastare. E poi cosa gliene deve importare a lei del suo nome, tanto da iriderlo e stropiarlo? Era un nome il suo, se ne rendo conto, stupido, per il solo fatto che sua madre lo aveva partorito la sera della vigilia di Natale e i suoi genitori si erano sentiti autorizzati a rifilargli quel nome che sapeva tanto di pretesco. E se fosse nato il giorno di Pasqua, lo avrebbero chiamato allora Pasquale? Pensava che il suo nome gli dava la patente del devoto, dell'unto del Signore, con tanto di S maiuscola. E allora, giunto all'età dei primi apprendimenti del latino, aveva tentato di farsi chiamare Nat, come Nat King Cole, per intendersi quel bel negro tutto denti che sapeva cantare divinamente e muovere agile le dita sulla tastiera del piano. Ma l'espediente non aveva attecchito. Natale era rimasto disperatamente Natale. Ed era già molto che non gli fosse rimasto appiccicato addirittura un ingombrante Natalino che i compagni di classe gli avevano rifilato ai tempi di un altro cantante, Natalino Otto, tutto swing e fin qui bene, ma poco troppo americano. Sei muto? Devo risponderti? Sì. Non fare il sordo o il muto. Il sordo muto? Dai, rispondimi. Porcherie. Ma che carta è questa che hai? Carta frangipane. Ecco. Ebbene sì, sono nato alla vigilia di Natale e mia madre, la sera della vigilia, ogni anno mi ricordava che quel Natale io glielo avevo rovinato, facendogli passare col mal di pancia. Grazie. Si raccontano tante cose, si raccontano tante storie sul personaggio che praticamente parla di se stesso, come avevo detto in precedenza, che ha degli amici, ha delle amanti, ha delle morose temporanee e incontra una morosa particolare che è Irina. Irina è una ucraina che ha lasciato la sua terra dove suo marito la picchiava ed è venuta in Italia a campare e fa la donna delle pulizie per una impresa di pulizie che lavora all'ospedale e a tempo libero si prostituisce e quindi Natale finisce col diventare un suo consueto, non dico accompagnatore. Sapete, mi viene in mente una cosa in questo momento, guardate, non c'entra molto, ma ve la voglio raccontare. Io da ragazzino mi ricordo quando la domenica si andava a messa e si andava nella messa grande. La messa grande a Bolzano era in Duomo, alle ore 11, mi ricordo anche l'ora, alle 11 in Duomo e noi bambini, ragazzini, avevo 8-9 anni, e ci mettevamo sotto il pulpito e alzavamo gli occhi e vedevamo sul il Duomo, l'avete presente il pulpito del Duomo, c'era una piccola tettoia di pietra scolpita, che adesso non c'è più perché con la bomba, che erano due bombe che hanno colpito il Duomo, questa tettoia è caduta e si è infranta e non è più stato possibile ricostruirla. Ebbene, il giorno di domenica, visto che parlo di prostitute, era usanza, l'ho saputo solo dopo, era usanza, siamo nei primi anni 40, per il tenutario della casa di tolleranza di via Conciapelli di far fare alle ragazze, a quelle più appariscenti, più invitanti, più piacevoli a vedersi, un passaggio in carrozzella davanti al Duomo andata e ritorno, in modo che all'uscita i signori vedessero di qual buona carne disponeva il casino di via Conciapelli. Questa era un'usanza bolzanina che è venuta meno naturalmente dopo la guerra con la legge Merlin. Ecco. Questi sono episodi che si snocciolano durante nello sfogliare delle pagine. E una cosa che ho voluto inserire anche è l'interesse che Natale prova per le letture, le conoscenze astronomiche. Io ho letto, ho detto prima, questo libro di Flammarion, dal quale è stata tratta questa immagine, ho letto il libro L'astronomia popolare per intero quando ero ragazzo, mi piacevano tantissimo i libri, mi chiudevo nel salotto buono con i miei libri che erano là, quelli di mio padre e di mio nonno nel caso specifico, li leggevo e mi sono letto tutta l'astronomia popolare, apprendendo le realtà, le conoscenze di allora. Ho tuttora questo vizio. Quando sul giornale, sul Corriere della Sera, sulla lettura, sul settimanale, sul supplemento settimanale del Corriere appare qualcosa che sa di ricerca scientifica, lo spazio e cose del genere, io mi ci butto. Anche se non capisco più niente, perché adesso sono cose talmente difficili, ingarbugliate, si parla di un mondo che praticamente non è quasi più il nostro. È come quando io, anziano, pretendo di scrivere qualcosa con il telefonino, con il mio computer, e di raccapezzarmi in tutti quei bottoncini di qua e bottoncini di là, in tutte quelle competenze e possibilità che queste macchine offrono e nelle quali mi perdo. Vediamo cosa ho preparato per voi. Vedete, mia moglie aveva detto: scrivi ste cose in modo che si possano leggere sullo schermo. Sarebbe stato meglio, ma era complesso. Ed ecco ora Natale con in mano la lettura e l'articolo d'apertura che suona: non c'è pace sulla terra, cerchiamola sulla luna. Un tema interessante e Natale affonda nel corposo sottotitolo, un lunghissimo sottotitolo. Esiste una diplomazia dello spazio che ha sempre funzionato facendo dialogare americani e sovietici anche nei momenti peggiori della guerra fredda e via avanti. E tra l'altro ci parla della fame di materie prime, e ne aveva letto ancora il nostro piccolo Natale, e gli pareva assurdo che le ci volessero ora andare a raccogliere nello spazio, sulla e sotto la superficie di altri pianeti, satelliti, corpi celesti. Sapete quanto ci vuole per arrivare a Plutone? Ci vogliono 4 anni. Sapete qual è la temperatura su Plutone? Sono meno 250 gradi. La temperatura dello spazio, nello spazio, mi avevano insegnato che era a meno 264. In questi ultimi giorni è stato corretto, a meno 273. Sapete quanto ci mette Plutone a fare un giro completo attorno al Sole? Ci mette 250 anni. Quello che è il nostro anno, ingigantito praticamente. E per tornare un po' indietro e raccontarvi altre cose, torniamo a Galileo. Galileo fu perseguitato, è il caso di dirlo, dai cardinali di Roma, alla faccia delle religioni, perché sosteneva che la Terra è la Terra che gira attorno al Sole, non il Sole che gira attorno alla Terra. Ebbene, fu costretto a abiurare sotto la minaccia di tortura e rogo. Immaginatevi, tra l'altro lui aveva visto con gli occhi suoi, aveva visto i pianeti, aveva visto i satelliti che girano attorno ai pianeti. No, non è possibile, i pianeti non hanno satelliti, dicevano i cardinali. E lui pretendeva che attorno a Giove, mi pare fosse Giove, girassero 4 satelliti che aveva identificato e li aveva chiamati satelliti e sono conosciuti come satelliti Medicei. Dai medici, naturalmente, i medici di Firenze e della Toscana poi, non ci credevano. Bene, sapete quanti sono i satelliti di Giove? Non sono 4, sono 84. Ed è stato costretto lui ad abbiurare, a dire che no, non è vero, lui si è sbagliato, eccetera, eccetera. Beh, insomma, ve la devo far breve perché io sul tema poi finirei con lo sforare troppo, quindi saltiamo. Vi voglio soltanto avvicinare alla conclusione. vi dirò e vi dico pertanto di Natale che lascia il lavoro, raggiunti i limiti, 60 anni passati, e cosa fa? Un po' ammorbidito nel suo agnosticismo, chiamiamolo così, sente il bisogno dell'avvicinarsi al prossimo, lui che era un tipo solitario, chiuso. Avvicinarsi al prossimo, essere d'aiuto al prossimo. E lo inducono, lo convincono a passare il suo tempo, alla fine, in una casa di riposo come volontario. Come volontario. Lui mantiene casa sua. E a casa sua chi c'è nel frattempo? Chi si è insediata a casa sua? Irina, la prostituta ucraina, che aveva trovato conveniente associarsi a lui. E forse se n'era anche innamorato. E comunque, alla fine, lo stesso Natale ha trovato conveniente sposare Irina. Io ho avuto un collega alla RAI che, bravissima persona, solo, solitario, annunciatore, Ivo Gaddi, che a conclusione della sua carriera, essendo solo a casa, si è sposato la badante, che non era una prostituta, per l'amor di Dio, era una brava badante, per darle una pensione, una sicurezza nel domani. E così ha fatto anche il nostro personaggio, il nostro Natale. Ebbene, in quell'ambiente, a contatto con vecchi, con capelli bianchi, con demenze, con malattie, lui in un certo senso rinasce. Natale resta più ateo che mai, ma cerca di capire l'umanità e la capisce anche. E viene avvicinato da uno dei tanti che lo apprezzano, uno dei tanti ospiti di questa casa di riposo che lui chiama ironicamente l'eremo dei capelli bianchi, che è un ingegnere, che però non era ingegnere, era geometra, e che lo avvicina sulla sedia a rotelle e gli parla, gli vuole parlare, gli dice dei suoi problemi, della sua infelicità, della stanchezza di questa vita, delle sofferenze che ha, e pian piano gli suggerisce, tenta di suggerirgli la sua intenzione di suicidarsi. Natale, no, a questo punto si allontana, non ci sta. Però si rende conto di una cosa, che certe situazioni sono difficilmente tollerabili, difficilmente risolvibili, che la vita può diventare anche, e diventa spesso, un peso. Ricordo, ho conosciuto molti suicidi, io. Posso fare un nome, lo faccio volentieri. Era una mia compagna non di classe, di scuola, Silvia Fantuzzi. Non so se qualcuno di voi l'ha conosciuta, tu l'hai conosciuta, bellissima ragazza. Tanto bella che quando facevamo le festicciole, io non le facevo neanche la corte perché erano in troppi a disputarsela. Io sono sempre stato conosciuto per quello che si prende le racchie. Però avevo constatato che per darci qualche baciozzo le cosiddette racchie erano subito disponibili, le belle no. E allora avevo lasciato da parte la Fantuzzi, che era troppo bella. L'ho incontrata pochi anni fa e sotto casa mia. Ciao Silvio, non ti vedo da tanto tempo. Era scarmigliata, malmessa, mal vestita. Si guardava in giro con occhi spiritati. Che c'è? Ah, dice, guarda, mi guardano tutti. Come ti guardano? Guarda, dietro quelle finestre. Guarda, io guardo, c'è nessuno. Insomma, a un certo punto capisco una cosa. Mania di persecuzione. Stavo parlando con una, non con la Silvia, ma con una matta che aveva il volto della Silvia. Un po' vigliaccamente mi sono sganciato, uso questo termine, e lei se n'è andata. Poche settimane dopo so che si è buttata dal ponte di Mostizzolo, in Val di Non. Val di Non, esatto. Ho conosciuto... Mazzoni, il sindaco di Bolzano. Ne ho scritto nel mio Bolzano scomparsa numero 2. Era il genitore di Mariano Mazzoni, che era il mio compagno di classe. Era questore di Bolzano. Aveva fatto la parte sua durante la guerra partigiana, era stato partigiano. Ed era diventato questore. Però seguiva una linea che non era quella governativa, perché lui era disposto, ben disposto nei confronti dei sudtirolesi, ne riconosceva i diritti. E la cosa non era ammissibile, erano i tempi di Magnago, del ministro Tambroni, democristiano di destra e via dicendo. Insomma, lo hanno mandato via da Bolzano, dislocato in una questura di minore interesse, di minore prestigio, che era quella di Treviso. E una sera si è armato di pistola, è andato al cimitero e al di fuori del cimitero, nel quale non era riuscito a entrare perché i cancelli, visto il buio, erano chiusi, si è sparato un colpo in testa. Ne ho, ripeto, scritto, c'è anche la sua foto, in Bolzano scomparsa 2. E qualche anno fa ho chiesto a Mariano, che è morto 2 anni fa, tra l'altro, io sono un sopravvissuto, ma ti ha detto niente tuo padre? Io ho pubblicato la lettera che il padre aveva scritto al ministro Tambroni, bellissima, sui diritti dei sudtirolesi. Bolzano scomparsa numero 2. E lui mi ha risposto, Mariano, no, non mi ha detto, l'unica cosa che mi ha detto è non ne posso più. E si è ucciso. Ho conosciuto il fratello di un mio carissimo amico, che non voglio citare, che qui in questa sala in questo momento si chiamava Franco. Ho conosciuto, che si è ucciso in Val Sarentino, ho conosciuto Leo Gurschler, il padrone della Val Senale, che ha fatto rivivere la Val Senale. Si è infilato naturalmente nei debiti per poter costruire quella costosissima funivia. Io sono andato spesso lassù perché c'erano gli azzurri dello sci che si allenavano, e anche lui si è ucciso, un colpo di pistola. E poi il Guido che seguiva me nell'itinerario al liceo classico, era 1 o 2 anni dopo di me. Sai di chi parlo? Esatto. Che aveva sposato la sorella del mio compagno di classe, Arnaldo Lohner, che forse conoscerete, noto anche lui. Pozzera, si è ucciso, non so perché, ma il suicidio che più mi ha impressionato, adesso sto un poco troppo divagando e mi sto anche ingamberando e tra poco vi lascerò andare a casa, è stato a Firenze, nella chiesa di Santa Maria dei Fiori. Bellissima. Bellissima. Sapete che la chiesa di Santa Maria dei Fiori è stata ultimata nel tardo 800, la facciata è stata, l'ho trovato proprio in uno dei miei vecchi libri di mio nonno, era stata costruita negli anni 880, cose del genere. Secondo lo stile dell'epoca, no? come il Duomo di Pisa e altre meraviglie. Ecco, sono là. Quando io giravo per la RAI, cercavo di abbinare l'utile al dilettevole. Andavo per servizio, lavoravo, facevo quel che dovevo fare, ma quando potevo andavo a visitarmi chiese, musei, castelli e cose del genere. E quindi sono tornato, ancora una volta, in quell'occasione, nella chiesa di Santa Maria del Fiore, pensando potrei salire nella cupola. Io ero stato anni prima, da ragazzino, solo a Roma, mi ero infilato nella cupola della chiesa di San Pietro, che ha un diametro di 5 metri, ci si entra 5 per volta, e ci sono delle feritoie alle quali ci può accostare l'occhio, e dall'alto si vede tutta Roma sotto, una paura che di rotolare giù, che capitasse qualche cosa, ma si può fare, e l'ho fatto. Allora mi sono detto, provo a salire nella cupola di Firenze. E sono lì che ci penso e improvvisamente sento una esplosione, subito seguita da un urlo di donna. Era un visitatore che si era buttato all'interno della chiesa dalla cupola, dall'interno della cupola. Un colpo d'artiglieria. È quell'urlo di donna. Sono andato a vedere, visto a distanza, un mucchietto di abiti e me ne sono venuto via. E siccome ero e sono un giornalista con le sue perversioni, la mia prima preoccupazione, sapete qual è stata? Quella di telefonare alla redazione RAI di Firenze per dare la notizia. Ecco, questa è stata la mia reazione allora. Mi rendo conto adesso di come noi alle volte siamo legati alla banalità. Deformazione professionale, come dice il mio amico Franco. Bene, io a questo punto preferisco lasciare. E volevo soltanto dirvi, non avete saputo ancora cosa è accaduto, come è terminato il libro. Bene, sappiate una cosa, che questo mio libro, all'origine non volevo terminarlo, nel senso che ho pensato di lasciare le pagine finali in bianco, in modo che i lettori potessero a penna aggiungere la loro ipotesi di conclusione. E così avevo detto anche a Stefania. Poi mi sono detto, ma mi sembra anche un po' una stupidaggine. Non so, potrebbe essere una cosa positiva, potrebbe essere una cosa negativa. Insomma, sta di fatto che la soluzione l'ho scritta io, ma non l'ho detta in chiare parole. L'ho lasciata all'intuizione dei lettori. Io vi ringrazio molto di essere qui venuti e di avermi sentito con pazienza.